Il signore stia attento a non cadere, non sono ancora inchiodati, mi gridò Françoise. Avrei dovuto accendere. Siamo già alla fine di settembre. Le belle giornate sono finite. Presto, l'inverno, all'angolo della finestra, come in un vetro di galè, una vena di neve rappresa. E anche ai Champs-Élysées, invece delle fanciulle lungamente attese, i passeri, nient'altro che i passeri. Ad accrescere la mia disperazione per il mancato incontro con Madame d'Estermaria era la certezza, tratta dalla sua risposta, che mentre io, dalla domenica in avanti, non ero vissuto, ora dopo ora, che per quel pranzo, lei non ci avesse pensato neanche una volta. Venni poi a conoscenza di un suo assurdo matrimonio d'amore con un giovane che, a quei tempi, doveva già frequentare, e che sicuramente le aveva fatto dimenticare il mio invito. Infatti, nel caso se ne fosse ricordata, non avrebbe certo atteso la carrozza, che del resto, in base ai nostri accordi, non ero tenuto a inviarle, per avvertirmi che non era libera. Le mie fantasticherie sulla giovane vergine feudale in un'isola brumosa avevano aperto la strada a un amore ancora inesistente. Adesso la mia delusione, la mia rabbia, il mio disperato desiderio di riafferrare colei che mi si era rifiutata, potevano, coinvolgendo la mia sensibilità, fissare l'amore possibile che fino a quel momento mi era stato offerto, ma più blandamente, soltanto dalla mia fantasia. Quanti sono, nei nostri ricordi, e ancor più nel nostro oblio, i volti di fanciulle e di giovani donne, l'uno diverso dall'altro, ai quali abbiamo aggiunto un po' di fascino e un furioso desiderio di rivederli solo perché all'ultimo momento si erano sottratti. Nel caso di Madame d'Estermaria c'era molto di più, e ormai, per amarla, mi sarebbe bastato rivederla perché si rinnovassero le impressioni così vive, ma troppo fugaci, che diversamente, nell'assenza, la memoria non avrebbe avuto la forza di conservare. Le circostanze decisero altrimenti. Non la rividi più. Non fu lei la persona di cui mi innamorai, ma avrebbe potuto esserlo. E fra le cose che mi resero forse più crudele il grande amore che presto avrei avuto, vi fu, ricordando quella sera, il pensiero che sarebbe stata sufficiente la modifica di alcune semplicissime circostanze perché quell'amore si posasse altrove, su Madame d'Estermaria, e che, dunque, applicato a colei che subito dopo me lo ispirò, esso non era affatto, come peraltro avrei avuto tanta voglia, tanto bisogno di credere, assolutamente necessario e predestinato. Françoise m'aveva lasciato solo nella sala da pranzo, dicendomi che facevo male a restarci prima che lei avesse acceso il fuoco. Andava a preparare il pranzo, giacché, prima ancora dell'arrivo dei miei genitori e da quella stessa sera, aveva inizio la mia reclusione. Scorsi un enorme mucchio di tappeti ancora arrotolati, che era stato posato nell'angolo della credenza, e nascondendovi la testa, inghiottendo nella polvere insieme alle mie lacrime, simile agli ebrei che si coprivano la testa di cenere in segno di lutto, mi misi a singhiozzare. Ero scosso da brividi, non solo perché la stanza era fredda, ma perché un sensibile abbassamento termico, di cui peraltro non cerchiamo di contrastare né il pericolo né, bisogna pur dirlo, la lieve voluttà, è provocato da certe lacrime che ci stillano dagli occhi, goccia dopo goccia, come una pioggia sottile, gelida, penetrante e apparentemente senza fine. Tutto a un tratto sentì una voce. «Posso entrare? Françoise mi ha detto che ti avrei trovato in sala da pranzo. Venivo a vedere se avevi voglia di andare a mangiare insieme da qualche parte, sempre che non ti faccia male». Perché c'è una nebbia da tagliare col coltello. Era, arrivato sin dal mattino, quando lo credevo ancora in Marocco o al mare, Robert de Saint-Lieu. Ho già detto, ed era stato a Balbec, proprio Robert de Saint-Lieu ad aiutarmi, assolutamente suo malgrado, a prenderne coscienza, quel che penso dell'amicizia. Che essa è, in vero, così poca cosa da rendermi arduo capire come uomini di qualche ingegno, per esempio un Nietzsche, abbiano potuto commettere l'ingenuità di attribuirle un certo valore intellettuale e, conseguentemente, di rifiutarsi ad amicizie cui non fosse connessa la stima intellettuale. Sì, è sempre stato motivo di stupore per me vedere come un uomo che spingeva la sincerità con se stesso sino a staccarsi, per scrupolo di coscienza, dalla musica di Wagner, si sia figurato che la verità potesse realizzarsi in quel modo d'espressione per sua natura confuso e inadeguato che sono in generale le azioni e in particolare le amicizie. E come si sia potuto attribuire un qualche significato al fatto di lasciare il proprio lavoro per incontrarsi con un amico e piangere con lui, apprendendo la notizia falsa dell'incendio del Louvre. A Balbec ero arrivato al punto di trovare il piacere di intrattenermi in svaghi con fanciulle meno funesto alla vita intellettuale, cui d'altronde rimane estraneo, che non l'amicizia, il cui sforzo consiste esclusivamente nel farci sacrificare l'unica parte reale e incomunicabile, se non per mezzo dell'arte, di noi stessi, a un io superficiale, che anziché trovare, come l'altro, gioia dentro di sé, prova una confusa commozione nel sentirsi sostenuto da puntelli esterni, ospitato in un'individualità estranea dove, felice della protezione accordatagli, fa rifulgere in approvazione il proprio benessere e va in estasi di fronte a qualità che chiamerebbe difetti e cercherebbe di correggere in se stesso. D'altra parte, coloro che disprezzano l'amicizia possono essere, senza illusioni e non senza rimorsi, i migliori amici del mondo, così come un artista che porta in sé un capolavoro e sente che sarebbe suo dovere vivere per lavorare, ciò nonostante, per non apparire o rischiare d'essere egoista, dà la sua vita per una causa inutile e con tanto maggiore ardimento quanto più disinteressate erano le ragioni per cui avrebbe preferito non darla. Ma qualunque fosse la mia opinione sull'amicizia, per non parlare poi del piacere che essa mi procurava, di una qualità così mediocre da somigliare a una via di mezzo fra la stanchezza e la noia, non c'è beveraggio tanto funesto da non potere diventare, in certi momenti, prezioso e tonificante, dandoci la sferzata che c'era necessaria, il calore che non possiamo trovare in noi stessi. Ero lontanissimo, certo, dal pensare di chiedere a Saint-Lieu, come avrei desiderato un'ora prima, di farmi rivedere qualcuna delle donne di Rivebelle. Il solco scavato in me dal rimpianto di Madame de Stermaria non voleva essere chiuso così in fretta, ma nel momento in cui non sentivo più nel mio cuore la minima ragione di felicità, l'arrivo di Saint-Lieu fu come una ventata di bontà, d'allegria, di vita che erano fuori di me, certo, ma mi si offrivano, non chiedevano che di essere mie. Lui stesso non capì il mio grido di riconoscenza, le mie lacrime di commozione. Non c'è niente, d'altronde, di più paradossalmente affettuoso di uno di quegli amici, diplomatici, esploratori, aviatori o, come nel caso di Saint-Lieu, militari, i quali, ripartendo il giorno dopo per la campagna e di là per Dio sa dove, mostrano di voler far stare, nella serata che ci dedicano, un'impressione che ci si meraviglia, tanto è rara e breve, possa riuscir loro così dolce e, dal momento che ne traggono tanto piacere, non ispirare l'idea di prolungarne la durata o di rinnovarla più spesso. Una cosa affatto naturale come un pasto con noi procura a questi viaggiatori lo stesso piacere strano e delizioso che emana per un asiatico dai nostri boulevard. Uscimmo insieme per andare a pranzo e, scendendo la scala, mi ricordai di Doncières, dove ogni sera raggiungevo Robert al ristorante, e delle salette, ormai dimenticate, dove mangiavamo. Me ne tornò in mente una alla quale non avevo mai ripensato e che non si trovava all'albergo dove pranzava Saint-Lieu, ma in un altro assai più modesto, una via di mezzo tra la trattoria e la pensione familiare, dove si veniva serviti dalla padrona e da una domestica. A farmi sostare là era stata la neve. D'altronde, quella sera, Robert non avrebbe pranzato in albergo e io non avevo voluto spingermi più lontano. Mi servirono al piano di sopra, in una stanzetta tutta foderata di legno. Durante il pranzo, la lampada si spense. La domestica m'accese due candele. Io, fingendo di non vedere bene mentre le tendevo il piatto, che lei stava riempiendo di patate, presi con la mano il suo braccio nudo come per guidarlo. Vedendo che non lo ritraeva, lo accarezzai. Poi, senza dire una parola, l'attirai tutta contro di me e soffiai sulla candela e le dissi di frugarmi che prendesse un po' di denaro. Nei giorni seguenti mi parve che il piacere fisico, per essere gustato, esigesse non solo quella domestica, ma anche quell'isolata saletta in legno. Invece fu verso quella dove pranzavano Robert e i suoi amici che mi diressi ogni sera, per abitudine, per amicizia, fino alla mia partenza da Doncières. Eppure, anche a quest'ultimo albergo, dove alloggiavano Robert e gli altri, non avevo più pensato da molto tempo. Approfittiamo ben poco della nostra vita. Lasciamo incompiute, nei crepuscoli d'estate o nelle precoci notti d'inverno, le ore nelle quali, pure, c'era parso che si potesse concentrare un po' di pace o di piacere. Ma non sono del tutto perdute quelle ore. Quando cantano nuovi momenti di piacere che passerebbero allo stesso modo, altrettanto gracili e lineari, quelle ore vengono ad aggiungere la base, la consistenza di una ricca orchestrazione. Esse si estendono, così, sino ad uno di quei piaceri tipo che ritroviamo solo saltuariamente, ma che continuano ad esistere. Nell'esempio in questione, l'abbandono di ogni altra cosa per pranzare in un ambiente confortevole che, grazie alla virtù dei ricordi, racchiude promesse di viaggio in un quadro di natura, assieme a un amico che smuoverà la nostra vita stagnante con tutta la sua energia, con tutto il suo affetto, comunicandoci un piacere commosso, ben diverso da quello che potremmo procurarci con le nostre sole forze o con qualche svago mondano. Saremo suoi, soltanto suoi, gli faremo giuramenti d'amicizia che, nati nel chiuso di quell'ora, confinati in essa, domani, forse, non verrebbero mantenuti, ma che io potevo fare senza il minimo scrupolo a Saint-Lieu, visto che il giorno dopo, con un coraggio in cui aveva molta parte, accanto alla saggezza, il presentimento che l'amicizia non può essere approfondita, sarebbe già ripartito. Se, scendendo la scala, avevo rivissuto le sere di Doncières, quando fummo per strada, di colpo, la notte quasi fonda, dove la nebbia sembrava aver spento i lampioni che si scorgevano, fiochi, soltanto a due passi, mi riportò a non so quale arrivo di sera a Combray, quando ancora la città non era illuminata che a larghi intervalli e vi si vagava a tentoni in un'oscurità umida, tiepida e santa da presepio, appena costellata, qua e là, da qualche lumicino che non rischiarava più di un cero. Quante differenze fra quell'anno, peraltro incerto, di Combray e le serate di Rivebelle, che mi erano riapparse poco prima sullo sfondo delle tende. Provavo, nel riscontrarle, un entusiasmo che sarebbe potuto riuscire fecondo se fossi stato solo, e m'avrebbe così evitato il giro tortuoso di tanti anni inutili per i quali sarei ancora dovuto passare, prima che si dichiarasse l'invisibile vocazione di cui quest'opera è la storia. Se quella sera ciò si fosse verificato, la vettura su cui ero salito avrebbe meritato di restare più memorabile per me di quella del dottor Perspier, sul cui seggiolino avevo composto la breve descrizione, ritrovata per l'appunto poco tempo prima e inutilmente inviata con qualche ritocco al Figaro, dei campanili di Martinville. È perché, forse, non riviviamo i nostri anni nella loro successione ininterrotta, giorno dopo giorno, ma nel ricordo rappreso nella freschezza o nel gran sole di una mattina o d'una sera, all'ombra di quel certo luogo isolato, recintato, immobile, definito e perduto, lontano da tutto il resto, e perché così i cambiamenti graduali intervenuti non soltanto all'esterno, ma anche nei nostri sogni e nel nostro carattere in evoluzione, quei cambiamenti che ci hanno insensibilmente portati nella vita da un tempo a un altro affatto diverso, si trovano ad essere soppressi? Per questo, forse, che se riviviamo un altro ricordo, prelevato in un diverso anno, troviamo fra questo e quello, grazie a delle lacune, a degli immensi limbi di oblio, come l'abisso di una differenza d'abitudine, come l'abisso di una differenza di altitudine, come l'incompatibilità di due qualità incomparabili d'atmosfera respirata e di colorazioni ambientali. Ma fra i ricordi, allora appena succedutisi, di Combray, di Doncière e di Rivebel, io avvertivo ben più di una distanza temporale, la distanza che potrebbe esserci fra differenti universi la cui materia non fosse la stessa. Se avessi voluto, in un'opera, imitare quella nella quale mi apparivano cesellati i più insignificanti fra i miei ricordi di Rivebel, avrei dovuto venare di rosa, rendere di colpo traslucida, compatta, rinfrescante e sonora una sostanza fino a quel momento simile alla scura, rude arenaria di Combray. Ma Robert, impartite le sue istruzioni al vetturino, mi raggiunse nella carrozza. Le idee che mi erano balenate svanirono. Sono dee che si degnano qualche volta di rendersi visibili a un solitario mortale, alla svolta di un sentiero o magari in camera sua mentre sta dormendo, e gli recano, ritte nel riquadro della porta, la loro annunciazione. Ma non appena si è in due, spariscono. Mai gli uomini le scorgono in compagnia, e mi trovai ricacciato nell'amicizia.